Il giro della morte. Annunciato entro la fine di questo anno, dove i discepoli della morte e dell'inganno hanno distrutto mezzo mondo, ma in fondo lo sanno che il peggio il tempo è ancora più tiranno, e diranno che di anno in anno si va peggiorando, ignorando le cause e le stragi di un mondo che ha solo bisogno di inseguire un sogno americano, italiano, africano che sia. Fa lo stesso, sia diverso, sia uguale, ma esso non intende rinunciare a tutto questo. Modesto, quello è uguale, fa lo stesso. In poche parole, il mondo è tutto falso, anche se adesso l'odio sta riscuotendo molto successo. E quello che è successo lo butta dentro il cesso. Ma adesso passiamo a qualcosa di diverso, diverso dal tuo stupido stato mentale. Animale contro animale, aggredisce e fa male. Meno male che nel mondo non esiste solo il male, ma il male peggiore che il rap non si fa in due ore. Ci vogliono ore di allenamento e tormento, è il tempo di provare se i tuoi versi vanno a tempo. Ma i tempi degli allestimenti sono molto lenti, o altrimenti continui con fallimenti su fallimenti e ti lamenti. Se i tempi stringono il nesso non c'è la disciplina, e pop del tuo abecedario dov'è? Era tutto qui quello che sapevi fare, per anni e anni mi hai leccato il culo come un cane. Nello stesso tempo e allo stesso tempo il mio tormento a tempo ti ritorna in mente come un incubo. E one, two, check, e one, two, come on. Giro della morte, sei, sei, giro della morte, yeah. Yo, amico tu sei e resterai soltanto un vice. Il significato negativo del termine non mi si addice. Parola barra spaziatrice come una motrice. Il mio tono di voce ti trita come una frullatrice. Yo, i termini di pop punk, step rap sono nati e resteranno sempre una cultura black. Sono felice di aver contribuito a tenere il tuo fuoco spento. Vedo che il mio hip hop non sia un fallimento. Odiare e invidiare non ha senso, perché la vita per me è una grande battaglia di rap. Purtroppo il baratro del business ancora c'è, perché i soldi sono tutto per te. Vorrei soltanto portare un po' di giustizia nel rap e buttare giù dal trono il tuo stupido re. Se siete sì dei principi ma senza principi, dicono che tutti i ricchi sono felici. E questo è il nostro mondo, il nostro stupido mondo. E a me non piace più, lo disprezzo fino in fondo. A parte gli scherzi, anzi scherzi a parte, credo sia il momento di buttar giù le carte. Anche perché il prezzo da pagare duro e forte, ma tutto questo è il prezzo del giro della morte. Giro della morte, sì. Giro della morte, sei, sei, giro della morte, yao, yao, giro della morte, giro della morte, come on, come on. Il mercato principalmente punta sull'ignoranza della gente, è inutile lamentarsi, tanto le regole restano sempre quelle invariate. La balistica anticipa al ballottaggio, ma soltanto per i soldi e tutto questo è un oltraggio. Il mio bagaglio di parole pesa come un badile, dal tuo castello d'oro ti sbatto dentro un fienile. Io forte il vento su queste vele, sposto il vascello dove non deve. Forte la pioggia sull'asfalto, batte forte sopra il mio corpo. Forte il fulmine squarcia il cielo come la spada di un guerriero. Dentro di me, sotto la pelle, la paranoia non mi molla più il cervello per collegarmi insieme a tutta questa folla. Non penso niente per concentrarmi mentre scatto come una molla. Ma la paura, stai sicuro che non molla? Allora poi a chi molla salta come una palla. E facendo musica che vivo e che campo, i campi non saranno mai il mio campo finché campo. Compongo campionamenti, rime su rime e canzoni. Ciao, ti riempio la testa di rime diverse, di ritmi e suoni strani. In questo caso, guarda caso, non a caso, non a un caso, casualmente, un caso assolutamente casuale. La nostra è una categoria in via di estinzione che si distingue categoricamente dal distintivo di fabbricazione. Queste sono abitudini abitualmente abituali che ti abituano a tenere forti e stretti i tuoi ideali. Ciao, si salvi chi può, anzi poteva andarci peggio. La peggior notizia è che il peggio deve ancora arrivare, allora sarà peggio per te, mio povero vile. Corron velocemente mille righe di rime sul vinile, inutile lamentarsi gridando forte se non sei riuscito a fare il giro della morte. Yeah. Giro della morte, sei, sei, giro della morte, yao, yao, giro della morte, giro della morte, come on, come on. Giro della morte, sei, sei, giro della morte, yao, yao, giro della morte, giro della morte. come on.